ad alta voce. Marco Foschi legge La Gloria di Giuseppe Berto. Luca racconta che quando arrivasti all'età di 12 anni, i tuoi genitori decisero di portarti a Gerusalemme per la festa della Pasqua. Era consuetudine allora andare a Gerusalemme in occasione di quella festa. Si passava qualche giorno meno monotono degli altri, si comprava qualcosa che nei villaggi non si trovava e soprattutto si andava a pregare nel tempio che Salomone, figlio di Davide, aveva costruito affinché vi fosse custodita l'arca nella quale dimorava il nome, la divina presenza. Era quello il centro della fede e della cultura del popolo di Israele. E sembra che i bambini, i più promettenti almeno, giunti ad una certa età, dovessero venire presentati ad una commissione di sacerdoti del Tempio che giudicava della loro preparazione religiosa e civile. Per arrivare alla capitale da regioni lontane, come la Galilea, si impiegavano più giorni. La gente partiva a piccoli gruppi di parenti e paesani, procedendo si riunivano in comitive che man mano si ingrossavano per andare più sicuri. C'erano da attraversare terre infestate da ladroni e durante il cammino si facevano conoscenze, si scambiavano informazioni, si stringevano nuove amicizie e poi, celebrata la festa, le comitive riprendevano la strada di casa. In genere si muovevano alla prima luce del giorno, in mezzo a una grande confusione. C'era da prendersi cura dei quadrupedi, abbeverarli e nutrirli prima della partenza, sistemare i carichi, controllare provviste e spese, tutto tra grida, richiami e anche qualche imprecazione. I ragazzi, eccitati e divertiti, di solito avevano l'incarico di provvedere l'acqua da bere, che andavano ad attingere alle fontane con zucche o piccoli otri di pelle o di tela. Quando il sole stava per sorgere, la carovana di cui faceva parte la gente di Nazareth si mosse verso settentrione, tu non partisti. I tuoi genitori però erano sicuri che eri là intorno. E quando poi durante la marcia non ti videro, non se ne dettero pensiero. I ragazzi s'annoiavano a camminare coi grandi, preferivano riunirsi insieme per ridere, scherzare, fare progetti di giochi o d'avventure. Ma la sera, poiché la carovana fece sosta e tu non ti facevi vivo, cominciarono a preoccuparsi. Ti cercarono da fuoco a fuoco, presso parenti e conoscenti, e non smisero di pregare il Signore e di chiamarti tutta la notte, anche dopo che le voci e i canti dei pellegrini si furono acquietati. Il mattino seguente, mentre gli altri ripartivano verso la Galilea, essi tornarono indietro pieni di apprensione e anche di rimorso, perché pareva loro di non essere stati abbastanza diligenti nell'aver cura di te, sebbene a 12 anni, ragazzo intelligente e riflessivo com'eri, fosse da pensare che non ti saresti perduto in una città che in fin dei conti si percorreva da parte a parte in neanche mezz'ora. Ti cercarono in tutti i posti dove eravate state insieme, strade e incroci, piazze e mercati, locande e osterie, e infine dopo 3 giorni anche nel tempio, e proprio lì ti trovarono seduto tra i sapienti che ponevi loro, tu ragazzo dodicenne, domande profonde. C'era da stupire e anche da inorgoglirsi, ma essi, il falegname di Nazareth e sua moglie, erano ancora troppo occupati dall'angoscia di quei 4 giorni durante i quali sempre più avevano temuto d'averti perso, magari per sempre. Perciò, al di là della gloria del ritrovamento, la domanda di tua madre fu tra dolore e rimprovero: figlio mio, perché ci hai fatto questo? Tuo padre Dio ti abbiamo cercato e siamo stati in pena. A questa osservazione, umile a pensarci bene, e d'altra parte una delle precipue virtù della Vergine Madre era appunto l'umiltà, tu, ragazzo, rispondesti con arroganza. Eri euforizzato dal successo che stavi avendo con i sapienti? Ti vergognavi là in quell'ambiente del loro aspetto di provinciali? Fatto sta che rispondesti: ma perché mi cercavate? Non sapevate che devo occuparmi delle cose del padre mio? Essi, per loro fortuna, si può ben dire, non colsero il senso delle tue parole. Non capirono che tu ti eri già liberato del padre malinconico e frustrato, della madre esaltata e possessiva, che ormai eri pronto per la tua vicenda terrena e celeste, avendo un altro e più soddisfacente padre. Però, a 12 anni, che potevi fare? Tornasti con loro a Nazareth. E il libro dice che da allora in poi gli obbedisti docilmente. Per questa docile obbedienza, parecchi tra i tuoi più zelanti seguaci possono ora dire che tu fosti un lavoratore, un proletario. Non sembra vero. Anche se piantasti chiodi e segasti assi, essere falegname non fu la tua condizione. Tu studiavi, pregavi, meditavi, sognavi, come pressappoco facevo io nello stesso tempo. Per una notte, una sola interminabile notte, io fui tentato, con disperata speranza, di credermi l'unto, il veniente, senza trovare conforto né dentro né fuori di me. Colpa della mia poca fede o della circostanza che io avevo un padre che non era soltanto putativo e una madre consapevole d'avermi concepito molto regolarmente. Tu, con calma, sedendo a mensa coi tuoi e aiutando il falegname a segare e piallare, crescevi in sapienza, statura e grazia davanti a Dio e agli uomini. Quando ti sentisti pronto, voltate le spalle senza pianto a Maria e Giuseppe, a fratelli e sorelle, alle casupole di Nazareth, ti avviasti verso il battezzatore. E là io ero. S'erano fermati poco dopo il tramonto presso un pozzo intorno al quale crescevano alcuni alberi piegati dal vento. La terra era diventata rapidamente deserto. Sparito il sole, faceva subito freddo. Quando scesi ad attingere al pozzo, mi guardarono appena. Nessuno mi rivolse parola. Alcuni armeggiavano per accendere il fuoco. Il rabbi stava seduto per conto suo, meditava o pregava. L'acqua del pozzo era amara, come spesso nel deserto, e del resto il mare di sale non era lontano. Quale preghiera o meditazione poteva essere la sua? Il chiarore a ponente non era del tutto finito, ma dal lato opposto, sopra le alture, cominciavano a salire le stelle. Andai a coricarmi un po' distante, stretto nel mantello. Un fascio d'erbe aspre per cuscino. Il vento portava gridi di sciacalli affamati. Sia lodato l'Eterno nostro Dio, mormoravo. Ma la preghiera in me non si formava, la mente era troppo stanca. Da tanto tempo non dormivo e tentazioni e dubbi, speranze e disinganni mi avevano al fine stremato. Mi svegliai che le stelle dell'inverno erano tramontate. Quelle dell'estate stavano sopra il mio capo, lucide e fredde. Il fuoco presso il pozzo era acceso. Certo, dormivano là intorno. Il Rabbi era tra loro. L'Eterno ha fatto l'uomo senza storture, mi dicevo con Coelet, ma gli uomini hanno inventato infine complicazioni. Ne sapevo ben io qualcosa, però neppure l'Eterno sembrava essere molto comprensibile a mente umana. Che necessità aveva di fatiche, ricerche, complicità e collaborazione nostra? Con un gesto egli avrebbe potuto annientare l'impero di Roma o riportarci nel giardino in Eden, con una parola procacciarci i beni che sarebbero durati per un'eternità di eternità. Signore, tu sei il tuo nome, tu solo in tutta la terra, l'Altissimo, ma allontana da noi prove troppo crudeli. Così riuscii a pregare prima di riaddormentarmi. Quando tornai ad aprire gli occhi era tardi, il sole già caldo. Pensai, allarmato, che forse se n'erano già andati. E pensai anche in un attimo, tanto meglio se se ne sono andati. Ma stavano ancora lì e non avevano lasciato spegnere il fuoco. Non li temevo. Rabbi, gli avrei detto, sto aspettando che il Signore mi dia un segno della sua potenza o della sua vanità. Tu che ne dici? Ma il Rabbi non si vedeva. Gli altri stavano intorno al fuoco arrostendo una lepre o un coniglio che fosse. Erano 9, di tutte le età. Il più anziano aveva i capelli bianchi e gli occhi arrossati. Mi date un po' di cibo? Posso pagare? Mi studiavano, non senza diffidenza. Infine l'anziano fece un cenno che potevo sedermi. Mi accoccolai accanto ad uno che m'aveva fatto posto. Guardavamo il fuoco e nessuno parlava. Il Rabbi dov'è? Chiesi. Pareva che nessuno volesse rispondermi. E poi l'anziano disse: lo spirito sceso in lui dal cielo l'ha condotto verso il deserto. Solo? Non ha voluto nessuno con sé. Così, dunque, anche il più probabile profeta che io avessi incontrato era andato a interrogare e morire. L'Eterno è silenzio. Il coniglio o lepre che fosse fu pronto. Ne ringraziammo il Signore. Mangiammo in silenzio, magra porzione con sapore di selvatico. Dissi ad alta voce: non dovrebbe morire. Oggi Israele ha bisogno dei suoi figli migliori. L'anziano ribatté pacatamente: non morirà perché l'Eterno nostro Dio è sceso in lui. Da quanto tempo lo conosci? 7 giorni fa passò per Nain, mi guardò e lo seguì. Anche loro. Ti guarda e tu lasci tutto e gli cammini dietro. Eh sì, questo era possibile. Avevo conosciuto il potere dei suoi occhi, sebbene non rivolti a me. E quanto starà lontano? Non ha detto. Come farà a mangiare? Non ha bisogno di mangiare. Comunque, nei cieli c'è chi si prende cura di lui. Bene, non mi restava che attendere, potenza o vanità. Insieme ringraziammo l'Eterno per il cibo che avevamo mangiato. Non vollero denaro, dissero che sarebbero stati compensati altrimenti. Mi levai per tornare in disparte, a meditare. Dopo una settimana, due partirono verso Gerusalemme. Erano giovani e avevano fame. Furono molto biasimati dai sette rimasti, però la notte seguente ne partì un altro. Ora dormivo insieme a loro, accanto al fuoco che non lasciavamo spegnere, e ci svegliavamo ad ogni piccolo rumore, sospettosi non che il rabbi tornasse, ma che qualcun altro abbandonasse. Le notti adesso erano luminose di luna, e se un posto era vuoto, spingevamo lo sguardo verso Gerusalemme. Anche l'anziano, che non doveva vederci più, tanto gli si erano gonfiate le palpebre, gli chiesi: «Tu credi che sia l'unto, chi viene dal cielo e al di sopra di tutti?» rispose. Ribattei, irritato: «Non giocare con le parole. Credi che sia lui l'unto o non lo credi?» Si chiuse e mi lasciò senza risposta. Restammo in quattro. Uno, che si chiamava Etai, disse: «Non è facile capire. Alcuni affermano che è buono, altri che inganna la gente.» Etai era esperto cacciatore di topi e lucertole che poi mangiavamo ringraziandone l'Eterno. La seconda sera dopo il plenilunio aspettò che la luna si alzasse sopra le alture, poi si levò dicendo che andava a catturare un riccio di cui aveva scoperto la tana e non tornò. Restammo in tre, poi in due, io e l'anziano. Con gli occhi resi opachi dal tracoma, nessuno dei due capace di procacciare cibo. «Tu credi che il rabbi sia l'unto?» gli chiesi. «Il nome lo sa», rispose. Prima di sera se ne andò anche lui, incespicando sulle pietre, ma verso il deserto, non verso Gerusalemme. Perché l'Eterno cercava vittime tanto inutili? Mi stesi per terra, stretto al mantello, senza curarmi del fuoco che si stava spegnendo. «Oh Adonai, Dio, Zebaot, che ne fai della mia giovinezza, della mia arroganza e impazienza, del mio generoso vigore?» Non c'era risposta. Le stelle non avevano significato nei loro chiusi disegni. «La fine di una cosa è meglio del suo principio», mi dissi con Coelet, «e c'è anche il tempo per morire». Il giorno dopo, da Gerusalemme verso il paese dei Persiani, passarono dei mercanti e si fermarono per abbeverare i cammelli. Mi vendettero pane, formaggio e olive. Mi diedero anche notizie del mondo, benché io non le chiedessi. Il tetrarca Erode aveva fatto arrestare un falso profeta chiamato Giovanni, che predicava biasimandolo per via della moglie che aveva preso al fratello. Mi dissero: «I tempi per i profeti diventano difficili. Sei giovane. Perché non te ne torni a casa?» Non capivano che soltanto i giovani. Il rabbi arrivò a mezzogiorno, dopo il quarantesimo giorno, lo sguardo acceso per la febbre, ma la sua maestà intatta e non più magro né più debole di quando era partito. Girò gli occhi intorno, forse cercando, senza tuttavia mostrare sorpresa per la loro assenza o per la mia presenza. Era come se già sapesse che io mi sarei trovato lì. ma poteva anche darsi che io non avessi per lui importanza alcuna, che gli potesse trapassare la mia persona come vanità. Volli provocarlo. Se ne sono andati da giorni ormai, disse, mi capiterà ancora. È un'amarezza alla quale conviene che io faccia l'abitudine. La sua voce gli era appropriata, non intensa come lo sguardo, ma piena di cognizione e di lusinghe. Anch'essa prendeva. Gli dissi, se cerchi seguaci, io ti seguirò. Come vedi, io solo t'ho aspettato e tu non mi avevi chiamato. Non rispondeva. Stava riflettendo sulla mia proposta, o piuttosto pensando a qualche altra cosa, come se la proposta non avesse per lui significato. Volli provocarlo ancora. Giovanni, colui che t'ha battezzato al fiume, il tetrarca l'ha preso. Fu scosso e mi pose lo sguardo addosso. Pensava che io mentissi. Fui turbato e mi affrettai a spiegare. L'hanno riferito dei mercanti di passaggio per l'Oriente. Da loro ho comprato del cibo. Vuoi pane, formaggio, olive? Il sole era caldo e scelse per sedersi l'ombra d'un albero. Rendemmo grazie. Anche il gesto di portarsi il cibo alla bocca e il masticare era regale in lui. Nemmeno pensava al sapore del cibo. Disse, i tempi sono vicini, ma il tempo non è ancora venuto. Conviene che io torni in Galilea. Aveva parlato come uno che ragioni tra sé ad alta voce, trascurando la mia presenza. Rabbi, perché non mi guardi? Gli altri li hai guardati. Io non sono da meno degli altri e sono qui. Mi guardò, senza che nel suo sguardo ci fosse invito né comando. Gli occhi però erano inquisitivi. Cercava forse di capire quale fosse la mia forza. Poi si alzò, avviandosi. Gli andai a fianco. Non dovette esserne contento. Dopo un poco, esasperato, con durezza, senza guardarmi e camminando in fretta, disse: se uno viene a me e non odia suo padre e sua madre, e la moglie e i fratelli, e anche la sua propria vita, non può essere mio discepolo. Io odiavo anche lui. Rabbi, gli dissi. Credi che ti verrei dietro se non mi odiassi al punto da volerne morire, ma bisogna morire per qualcosa e tu devi dirmi, sei l'unto che libererà il popolo o c'è da aspettare qualcun altro? Si irritava per le mie parole e più in fretta camminava e io faticavo a stargli a fianco. Sembravo un questuante. Rabbi, se sei l'unto, perché non ti riveli? Di colpo si fermò, puntandomi addosso uno sguardo doloroso insieme aggressivo. Tu chi credi che io sia? Non avevo risposta, ma non lo temevo, benché smisurata sentissi la forza del suo spirito. Dissi, il mio braccio sa reggere una spada e il mio animo è ardito. Per un re combatterò fino alla morte. Continuava a guardarmi inquisitivo e vincolante. Poi, che m'ebbe dentro di sé giudicato, disse, non immagini quale croce sarai chiamato a portare quando avrò bisogno di morte. Lo dirò. Marco Foschi ha letto La Gloria di Giuseppe Berto.